Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Colazione a Roma, cena a Berlino. Siete pronti a partire? Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Oggi con Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, viaggiamo nell'Europa della crisi alla ricerca del consumatore più fortunato. Un viaggio, ai noi, dalla conclusione amara per l'Italia, dove, ve lo anticipo già, le spese si mangiano l'80% del reddito giornaliero. Fast food, sempre meno fast, nello spazio dedicato al retail e alla grande distribuzione. Parliamo poi della trasformazione in atto nella catena numero uno del settore. Focus sui trend, dedicato infine alla lettering mania, quando le parole fanno tendenza. Ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità della settimana. Gli addetti ai lavori parlano già di effetto Middleton. Tornano di moda i collant velati color carne. Banditi per anni da qualsiasi guardaroba di tendenza, fanno registrare un boom di vendite nei grandi magazzini inglesi. Intanto, da Beyoncé a Carla Bruni, sono in tante a copiare Kate. Vestiti a domicilio come la pizza. Un click sul sito e, entro 90 minuti, la shopping bag arriva alla porta. È il nuovo trend lanciato a Londra dalla catena di abbigliamento a cui fanno capo i negozi Oasis, Karen Millen e Warehouse. Dai campi nomadi all'atelier di alta moda, sfidando i cliché e superando le diffidenze. È il progetto Zingaro, finanziato dalla regione Sardegna. 9 ragazze rom di etnia serba e bosniaca della periferia di Carbonia seguono un corso di formazione e apprendistato che porterà alla nascita della linea di moda omonima. Sarà in vendita dal 17 novembre la collezione firmata da Donatella Versace per H&M. Dominata dai colori e dalle stampe riprese dagli archivi della Maison, è composta da linee per lei, per lui e per la casa, prima volta nella serie di collaborazioni tra il colosso svedese e le Griff. Prezzi compresi tra i $20, sciarpe e leggings, e i $299 per la giacca in pelle. Non è provvisoria la ripresa del lusso. Lo sostiene il Fashion and Luxury Insight, il rapporto annuale di SDA Bocconi e Alta Gamma. Dopo la ripresa registrata nel 2010, il mercato mondiale dei beni di lusso quest'anno dovrebbe aumentare tra il 10 e il 13%, e anche le previsioni per il 2012 sono positive. Bene le automobili, l'alimentare e l'arredamento, in calo alberghi e yacht. Si chiuderà domenica prossima, 30 ottobre, l'ottava edizione di Io faccio la spesa giusta, rassegna sul commercio equo e solidale, promossa dal consorzio Fair Trade Italia. Tutte le iniziative su fairtradeitalia.it. La borsa della spesa. Ora, signori, io ho depositato alla banca Bering la somma di 20.000 sterline e sono pronto a rischiarle parte o tutte su questa scommessa. Cioè che io posso fare il giro del mondo in 80 giorni. Vale a dire in 1920 ore o 115.200 minuti. Qualcun altro oltre a Stewart vuole partecipare? Pronti a partire dunque? Il viaggio che ci accingiamo a fare non sarà un giro del mondo, ma un giro d'Europa. Impiegheremo però un solo giorno, la giornata tipo di un consumatore tra risparmio sognato e costi reali. Caffè e brioche al bar a Roma, al lavoro, in tram o in auto, ma con un'assicurazione stipulata a Parigi e il pieno di benzina fatto a Madrid. Ritorno nella capitale spagnola per cena, pranzo invece a Berlino, il tutto telefonando agli amici con tariffe italiane, ma con uno stipendio tedesco o britannico in tasca, non certo il nostro. Ecco la giornata ideale per chi vuole risparmiare, uno slalom tra il caro vita che si ricava dall'indagine ad hoc sul costo di una giornata tipo in Europa. Il consumatore italiano ne esce malconcio. Il costo della vita nel nostro paese è superiore del 2% alla media europea, ma i redditi medi sono più bassi del 35%. Solo per la sopravvivenza quotidiana in Italia se ne va l'80% del reddito giornaliero, contro il 40% della Germania e il 56% della Spagna. Senza contare che un impiegato di medio livello in Italia guadagna 1.410 euro, in Germania 2.580, 10 in meno in

Con lo scontrino va al bancone che evade immediatamente la sua ordinazione, eliminando quindi le code. Perché, come al supermercato, sono davvero fastidiose e nei momenti di maggior flusso scoraggiano i clienti giovani e meno a cimentarsi per ordinare hamburger e patatine. Essere e avere. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, parole, parole, parole, parole, soltanto parole, parole tra noi. Di nuovo in studio con Essere e Avere, sono le parole le protagoniste del focus sui trend di questa puntata, protagoniste della tendenza che va sotto il nome di lettering. Ne parliamo come sempre con la nostra esperta Patrizia Martello, docente di sociologia dei consumi, analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie e buongiorno a tutti. Lettering couture titolava qualche settimana fa Vanity Fair, ad indicare lettere, parole e frasi stampate o ricamate su vestiti, accessori, oggetti di design, persino gioielli. Le scritte sono di ispirazione anche per architettura e arte. Prima di lasciarti la parola, Patrizia, sentiamo insieme quello che ci ha detto qualche giorno fa, in occasione della morte di Steve Jobs, il sociologo dei consumi Mauro Ferraresi. Lo stesso Steve Jobs, in un famoso discorso agli studenti di Stanford che lui fece nel 2005, lui disse, pizzicando qua e là corsi divertenti e interessanti nell'università, lui non si laureerò mai, io seguii anche dei corsi sul lettering, diremmo oggi, cioè sui vari tipi di carattere, su come questi devono essere fatti, sull'impatto visivo, emotivo e artistico dei caratteri. E tutto questo poi 10 anni dopo, continua Steve Jobs, mi servì per costruire un computer che aveva un design accattivante all'esterno, ma anche e soprattutto un design accattivante all'interno nel momento in cui lo si usava. Allora Patrizia, partiamo da qui, è una buona premessa? Certamente, io associo Steve Jobs, come altri geni dell'innovazione peraltro, a due parole, ordine e invenzione. Lo penso proprio in mezzo a queste due parole, tra ordine e invenzione. Non è un caso che il corso di calligrafia, bella scrittura, lettering, sia stato influente sul design inteso come progetto e come estetica dei prodotti Apple. I segni, i caratteri, la scrittura hanno un ordine intrinseco e contengono nei loro limiti formali proprio le possibilità dell'invenzione creativa. Parole protagoniste sono le parole scritte, scrittura che non è scomparsa come profetizzato da alcuni all'avanzare delle tecnologie a supporto della comunicazione, ma si è diffusa sempre di più, tanto che anche i cellulari, basta che li guardiamo, si sono ingranditi sempre di più per includere tastiere sempre più ampie per scrivere comodamente. E parlare di piacere della scrittura, per ritornare a Ferrari, è parlare di fatto di piacere per la digitazione sui tasti dei vari device connettivi che ci portiamo appresso. C'è un nuovo gusto che è il gusto di vedere quel che si dice scrivendo e quello che gli altri dicono scrivendo. Il lettering che si sceglie per fare questo, quindi il tipo di carattere che si usa, è un interessante indicatore dei diversi temperamenti, diciamo così, dei contenuti che vogliamo comunicare. I caratteri hanno un'anima, veicolano mondi, pensiamo solo a quanta identità visiva di brand e aziende deriva dal tipo di carattere tipografico usato, per esemplificare con due soli nomi enormi, Coca-Cola, IBM. Dimmi che font usi e ti dirò chi sei, è questa un po' l'idea di Just My Type, A Book About Fonts di Simon Garfield, storie sulla storia dei font, dei caratteri e del loro fascino subliminale, quindi storie di case di font di successo dal mondo dei consumi, compreso il Gotham usato nella campagna del 2008 di Obama. E c'è un blog monografico interamente dedicato ai font newyorkesi, si chiama New York City Type, lui è un giovane fotografo designer, Luke Connelly, posta degli scatti di ogni scritta che compare in città, dall'insegna ai graffiti all'advertising. Nel cuore di Copenaghen è sorto un pop-up concept store di oggetti rigorosamente tipografati, chiude a fine 2011, ideato dall'agenzia che si chiama E-Types, che in questo modo usa i propri font originali, sono 100 quelli che ha creato, li fa diventare elemento stilistico, grafica decorativa del merchandising che vende. Anticipavi l'introduzione collezione Lettering Couture. Sono le parole che fanno cortocircuito con gli oggetti che indossiamo, abiti e accessori, quindi parole che ci portiamo addosso, vicine, per comunicare messaggi che di nuovo marcano un'identità. Ricordiamo un esempio notissimo, la scritta I'm not a plastic bag sulle borse, che dicevano non sono una borsa di plastica, ergo borsa sostenibile, per estensione sono al braccio di una persona che evidentemente dà un valore alla sostenibilità. Dunque lettere, parole, presenze importanti su abiti e accessori, qualche esempio, la borsa Carpisa con la scritta Catch Me con manette annesse, ma anche lettere collana per Dolce & Gabbana, che usa caratteri cubitali stampati un po' ovunque, da magliette a pantaloni. E poi lettere e parole che diventano forme di oggetti per la casa, come lo specchio Vanity Kills, la vanità uccide, che ha la forma di questa dicitura. Architettura e lettering extra large. Super graphics è una corrente che da qualche anno a questa parte investe massicciamente l'architettura. Consiste nell'uso della grafica di enormi dimensioni sia sull'esterno che all'interno degli edifici. È il caso di una scuola di Brooklyn realizzata nel 2010 da Pentagram, dove campeggiano motti sull'educazione, sui muri, nei corridoi, per esempio educazione uguale libertà, oppure sempre a New York i 42nd Street Studios progettati da Paula Scher, in cui un'enorme scritta stairs, scale, segnala appunto le scale, o i numeri sul pavimento all'uscita dagli ascensori indicano il piano su cui ci si trova. Parole protagoniste anche nell'arte, street art in primis. Le prime scritte a passare dalla strada alle gallerie d'arte furono negli anni Ottanta quelle di Jean-Michel Basquiat, uno dei più importanti esponenti del graffitismo americano. L'artista che insieme a Keith Haring viene considerato il padre nobile della street art. L'elemento che contraddistingue l'arte di Basquiat è proprio l'utilizzo delle parole, inserite nei suoi dipinti come parte integrante, a volte come sfondo, altre volte cancellate. La cancellatura è il tratto distintivo di Emilio Isgrò, classe 1937, artista siciliano famoso in tutto il mondo. Opera simbolo Fratelli d'Italia. Metri di pannelli di carta sui quali l'inno nazionale è cancellato ad eccezione di alcune parole chiave. Molto apprezzata dagli anni 90 ad oggi, la produzione dell'artista francese Bain, commenti scritti in una semplice grafia corsiva, quasi ingenua, su tele e oggetti, combinando scrittura ed elementi fumettistici. Da tempo i graffiti influenzano anche lo stile, fonti di ispirazione soprattutto per la moda. Un pezzo su tutti? La borsa Vuitton, ricoperta da scritte fluo, dell'artista writer Stephen Sprouse. Patrizia, non più solo street art, oggi si parla molto anche di public art, l'arte che invade gli spazi pubblici, e anche qui la parola, le lettere sono protagoniste molte volte in modo provocatorio. Sì, in modo provocatorio, ma non solo. Un primo esempio che vorrei fare è proprio di parole legate alla riflessione, quindi all'arte cosiddetta impegnata. Lei è Rosaria Iazzetta, artista napoletana appunto impegnata in campagne anticamorra. Ha fatto parlare di sé con il progetto Parole dal cemento, delle maxi installazioni sulle vele di Scampia, tipo grandi banner giganteschi, per capirci, con messaggi chiari, allo stesso tempo poetici, come quando il vento dei soprusi sarà finito, le vele saranno spiegate verso la felicità. Altri progetti appunto più provocatori ma non meno riflessivi, come Four Letter Words, un progetto artistico che vede quattro elementi tecnologici, sono delle specie di tubi luminosi di neon, mostrano le lettere dell'alfabeto ricombinate in parole di sole quattro lettere. Il tutto è generato da un algoritmo infinito che sequenzia le parole secondo un criterio associativo, rime, significati, assonanze, eccetera. Genera anche una mappa visiva delle parole, per cui c'è tutto l'intero mondo a quattro lettere. Le parole diventano, dicevamo, anche oggetti. Sono molti gli omaggi del design. Un esempio tra i più eccentrici ma interessanti è la bicicletta con il telaio a forma di nome, dunque le ruote, gli altri elementi, e poi il telaio che ha proprio la forma della scritta a mano di nomi quali Megan, Andrea, eccetera, quindi nomi propri che diventano struttura portante. E le lettere gioiello, tasti al dito, sono gli anelli tasti, si trovano sul sito gwendy.com, creati da Gwendalina Rampone, milanese, che ha smantellato vecchie macchine da scrivere della ditta di famiglia, recuperando le scorte dei tasti di ricambio, ha creato un'intera linea di anelli, gemelli e adesso anche bracciali. È interessante anche l'idea della carta da regalo universale, si chiama così, è in bianco e nero, è fatta di lettere sparse in maniera apparentemente randomica ed è da usare come il gioco trova parole della settimana enigmistica, cioè si incornicia a penna la frase da usare a seconda del regalo e dell'occasione d'uso, da buon compleanno a buon Natale, auguri, eccetera. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Blackpool, Inghilterra, su lettering, consumi e dintorni? Ce lo racconta la nostra Urban Watcher, Alessia Zampano di Memetic Lab. Ciao Alessia. Ciao, un saluto a tutti. Gordon Young è un artista visuale esponente della public art. Il comune denominatore dei suoi lavori è il linguaggio, le parole, che Gordon traduce in esperienze materiche capaci di trasformare gli spazi pubblici da luoghi meramente funzionali in luoghi evocativi e provocatori. Il suo ultimo e di gran lunga più ambizioso progetto è stato appena inaugurato, dopo una gestazione durata ben 5 anni. Si tratta del Comedy Carpet, una pavimentazione tipografica in granito che copre una superficie di circa 2000 metri quadrati, un'installazione permanente che ridefinisce la promenade sul lungomare del Lancashire su cui si affaccia questa cittadina. Sulla passeggiata sono letteralmente incastonati modi di dire, frasi, battute e citazioni di attori e comici inglesi di ogni epoca e provenienza. In pratica l'opera è una gigantesca mappa delle risate che hanno segnato la Gran Bretagna. Sono 160.000 le lettere utilizzate, scolpite singolarmente nel granito e annegate in pannelli di cemento. Le lettere e di conseguenza le frasi hanno diverse dimensioni che variano da pochi centimetri a più di un metro, visibili quindi sia a chi ci passeggia sopra, sia a chi avesse voglia di ammirare l'opera in tutta la sua grandezza dalla vicina torre che domina il lungomare. Grazie Alessia, consiglio a tutti di andare a vedere le immagini su comedycarpet.com. Patrizia, siamo in conclusione. Quale sviluppo prevedi per questa lettera in mania? Ma dunque, la scrittura, le parole, i segni, come sappiamo, non riescono appieno ad afferrare la realtà, hanno questo rapporto arbitrario con quello che denotano. È interessante però proprio per questo divario che rimane inevitabile, ineludibile tra le parole e le cose, tra i significanti e i significati, vedere come questi segni prestino le loro forme agli oggetti, si sovrappongano a loro e diventino dei simboli, diventino letteralmente qualcosa che costruisce mondi, nel caso dei consumi, mondi fisici di oggetti, di prodotti. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. Se vi siete persi qualcosa, cliccate su radio24.it, sezione podcast, potrete riascoltare e scaricare questa come le altre puntate. In attesa di risentirci, come sempre, domenica prossima dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.